grazie di essere qui con noi questa sera, perché con oggi vogliamo iniziare un altro percorso, quindi mantenerci come biblioteca sempre sulla linea, sulla collocazione della memoria, della storia e del territorio, che è una nostra tradizione, porteremo avanti negli anni, ma nello stesso tempo, come abbiamo anche a parte già fatto negli anni precedenti, vorremmo iniziare anche a valorizzare un percorso invece più scientifico, ecco, scientifico inteso di, nel senso di indagine, di ricerca, di approfondimento di tematiche che possono, ecco, trovare degli spunti poi anche in letture diverse, nuove, all'interno della biblioteca. Sono a disposizione numerosissimi libri che ricoprono tutto lo scibile, e volevamo trovare un tema che potesse interessare le persone. E quale, se non una domanda che ci si pone comunque sempre: quando si nasce, quando si vive e dove si andrà a finire? Ecco, io non voglio chiaramente buttarla sul pessimista, né tantomeno banalizzare questa domanda, ma è sicuro che per tutti noi c'è interiormente, c'è questa domanda che ci poniamo, ci sono degli interrogativi che rimangono spesso e volentieri incompiuti e che possono essere risolti in tante maniere diverse, ma sempre con questa incompletezza finale. Noi non avremo soluzioni, ma se non altro apriremo uno spiraglio per capire la scienza, come affronta certi temi, quali sono così gli studi che vengono fatti. Proponiamo questa prima serata, affidiamo questo tema attraverso il dialogo che ci sarà tra, per esempio, i nostri ospiti Federica Malfatti e Don Paolo Renner, con l'aiuto di Paolo Mazzucato, che è giornalista appunto della RAI, lo conoscete, e con il supporto anche della biblioteca, dei libri che noi mettiamo a disposizione. Un altro incontro sempre legato a questo tema di taglio filosofico e matematico avrà luogo la prossima settimana, lunedì 29 maggio, sempre alla stessa ora, alle 18, qui in questa sala al Pizzo Centro 3. Sulle sedie o sui tavoli troverete anche le cartoline dei prossimi appuntamenti con altre tematiche. Vi lascio subito, la serata si presenta bella consistente, forse ci sarà anche lo spazio alla fine per qualche domanda, per un dibattito. Vi cedo la parola e vi ringrazio tanto di aver accolto questo invito veramente difficile e ardito che la biblioteca mi ha rivolto, ma sicuramente sarà una bella serata. Grazie a voi. Da dove cominciare, no? Perché intorno all'infinito è una domanda abbastanza impegnativa. Valeria Trevisana ha detto che riguarda un po' tutti noi questa domanda, più o meno, forse almeno una volta ce la siamo fatta tutti la domanda sull'infinito, però credo anche che si possa campare bene senza in effetti poi farsela questa domanda. Allora io chiedo prima di tutto a Federica Malfatti, che studia filosofia, rappresenta all'interno di una facoltà teologica a Innsbruck, anche questo è molto interessante, di partire da lei. Quando se le fatta questa domanda la prima volta, visto che poi studia filosofia un momento se lo ricorderà, e non le chiedo perché, ma forse in che occasione è scattata questa formula scientifica? Poi mi terremo a capire che cosa si intende con questa parola. Ecco, quando insomma Valeria mi ha chiesto di venire a parlare di questo tema, la prima domanda che mi sono posta è quando è che ho incontrato la prima volta questo concetto, diciamo. E come filosofa devo dire mi sono venute in mente due cose. Allora, la prima volta l'approccio, il primo incontro è stato con la filosofia antica, quindi nella riflessione dei presocratici, che andavano alla ricerca dell'origine di tutte le cose, era, l'arche è intesa come, sia come origine che come causa finale di tutte le cose, le cose osservabili. Ecco, e qui l'infinito entra in termini di aperon, che però i presocratici, Anassimandro nello specifico, caratterizzavano in realtà come un infinito non compiuto, inteso come qualcosa di non finito, nel senso di da completarsi. Senza un limite, senza un contorno, potremmo dire, se fosse un disegno. Esatto, se fosse senza un limite, ecco, direi senza una forma. No? questo diciamo è stato il mio primo incontro. E ricordo, ecco, la transizione tra dal non essere all'essere era proprio una transizione di passaggio di forma, dall'assenza di forma all'assunzione di una forma specifica. E questo discrimine ti ha colpito, ha lasciato il segno? Sì, ha lasciato il segno perché, allora, io intuitivamente assegnavo all'infinito una connotazione positiva. Cioè, per me era comunque incommensurabile, ma intuitivamente era qualcosa di positivo. In Anassimandro è innanzitutto contrapposto all'essere. Si sente poco? Ecco, dicevo che intuitivamente io all'infinito assegnavo una connotazione molto positiva. Diciamo, era qualcosa che si sottraeva alle nostre capacità magari di comprensione, però era comunque positivo. Per Anassimandro è contrapposto all'essere. E l'essere per Anassimandro era era la positività. Quindi, diciamo, nel passaggio dall'albero alle cose del mondo c'era una transizione in senso positivo, quindi un miglioramento della realtà, diciamo. E quindi qui partiamo da un'idea, da una fascinazione che parte con una visione un po' negativa dell'infinito. L'infinito è qualcosa da rifuggire, tutto sommato. E oggi ci giocheremo un po' questa serata con una sorta di filosofia contro versus teologia, o insieme alla teologia, perché altrimenti diciamo quasi le stesse cose. Allora io proprio da questo punto partirei. Nella visione teologica, l'infinito è positivo, è qualcosa che attrae, è qualcosa verso il quale l'uomo, si dice in questa espressione, anela. Però la radice della negatività probabilmente è insita nell'idea che l'uomo si è fatto. Devo dire che io ho collegato quasi subito l'idea di infinito con la religione, perché da bambino ho vissuto ancora le ultime messe in latino, che erano interminabili, non ci capivo un tubo, e quindi ho avuto la sensazione dell'infinito, che l'infinito avesse a che fare con la Chiesa e con Dio, perché non finivano mai, le vie, quelli brascicavano, cantavano, giravano, incensavano, facevano tutti i colori e non si finiva mai, sentivo il globo, lo stomaco, ma quando la finiranno, per via. E poi ho scoperto anche degli aspetti positivi, tanto che sono andato a fare il prete, il teologo, e sicuramente ho scoperto pian piano che l'infinito è qualcosa che attira e spaventa al tempo stesso. Quindi è qualcosa che ci sfida, che ci incute un timore reverenziale, ma che ci allerta per altri versi. E quindi ha a che fare con il sacro. Il sacro è al tempo stesso affascinante e tremendo. Qui da noi si dice brutalscia, no? Qualcosa che è brutalmente bello, di una bellezza orribile, talmente bello da fare orrore. Questo è un po' l'infinito, l'horror vacui, il terrore del vuoto. D'altra parte il vuoto ti attira anche, perché il vuoto può voler dire magari pace, può voler dire eternità, può voler dire permanenza per sempre, non proprietarietà, transitorietà. Quindi l'infinito da sempre accompagna come una specie di ombra luminosa al cammino del credente, del teologo e così via. E ricordo che è una domanda che sorge nei momenti più strani, più imprevedibili da parte di adulti, di bambini anche, no? Che ti chiedono: ma se andiamo in paradiso e stiamo sempre con Gesù, non è un po' noioso? Se quando tu giochi vorresti smettere, no. Ecco, racconto che il paradiso sia una grande ludoteca, una grande giocheria dove puoi giocare sempre senza che la mamma ti chiama a mangiare. Allora è bello, sì, ed è finito. Cerchiamo di capire, ragazzi. Noi ci portiamo dentro però la finitezza, cioè tutte le cose che facciamo, tutti i momenti che viviamo, che godiamo, li percepiamo sempre come prossimi, insomma, a terminare, no? E allora la domanda che faccio al teologo è se questa idea di infinito non sia una risposta ad un bisogno che noi nutriamo e quindi di fondo anche la nostra proiezione, un'idea consolatoria, insomma, che metta una pezza alla nostra finitezza, oppure che proprio l'infinito sia una risposta al fatto che noi siamo di fatto finiti. Vedo che Feuerbach è condizionato con questa tesi della proiezione e così via, la vicinanza del... No. Allora, l'uomo è l'unico essere che ha la consapevolezza del tempo, della storia, la consapevolezza del finito, dell'infinito, dell'eterno, del transitorio, del contingente, dell'assoluto, del categoriale. Quindi l'uomo è l'unico che riesce a ragionare in queste categorie. E direbbe Sant'Agostino che porta in sé la nostalgia dell'eterno, dell'infinito, della bellezza assoluta, della perfezione assoluta, perché in qualche modo l'abbiamo sperimentata in Dio. Quando eravamo prima di prendere corpo nel grembo della mamma, abbiamo assaporato l'infinito, e quindi ci resta questa nostalgia, questa volontà di ritornare in quella dimensione, in quella regione, diciamo, quella patria infinita che è il cielo, che è il nirvana, che è Valhalla, non so che vanno così via. Quindi nell'uomo c'è non solo desiderio come una proiezione in avanti, ma come una retroproiezione indietro, perché da sempre le culture classiche dell'antichità parlano di un'età dell'oro che era alle nostre spalle, poi seguita l'età dell'argento, del bronzo, via, andiamo sempre di male in peggio, una visione un po' italica delle cose, no? E in realtà poi la visione ebraico e poi cristiana parla di un paradiso che fu all'origine e che sarà alla fine, quindi c'è questa immissione nella dimensione storica, ma ci sarà poi un riemergere dell'eternità dell'infinito, quindi il paradiso che fu sarà. Questo è quanto diciamo Cristo ieri, oggi e per sempre, per affermare che c'è un arco di tensione che abbraccia tutta la storia. Quindi nostalgia all'infinito più che proiezione, perché con buona pace di cavalli, friguelli e così via, nessun essere animale o vegetale ha la percezione dell'infinito. È un dono impegnativo che è stato fatto a noi, Gabriel, Aufgabe, Kleinzeit. E quindi un compito in qualche modo da sviluppare, oppure anche un compito da utilizzare, uno strumento da utilizzare, perché Federica Malfatti nota che nella scienza, che in fondo è una nostra oggi contemporanea nuova religione, per come viene spesso accettata, l'infinito viene utilizzato in maniera non problematica, ad esempio in matematica, noi immaginiamo le serie finite dei numeri, anche se magari non capiamo veramente che cos'è, oppure addirittura oggi nella fisica, ma non nella fisica che guarda ad esempio ai pianeti, che forse più immediatamente noi associamo all'infinito sopra di noi, ma magari proprio anche alla struttura microscopica, submolecolare, oppure le ragioni che governano il fatto che noi, che siamo pur visibili, siamo governati da forze piccolissime e del tutto invisibili. Quindi l'infinito si può usare non problematicamente o tematizzare per farci ad esempio la nuova fisica. Ecco, sì, è interessante da notare come i matematici non abbiano paura dell'infinito. Loro lo trattano come uno strumento in maniera molto, molto, anche definizioni, assiomi, eccetera, ci lavorano. E invece i fisici, almeno quelli con cui mi sono confrontata, certe volte hanno quasi paura dell'infinito, come se fosse un retaggio di questa accezione negativa di incompletezza, no? Un segno di incompletezza di una teoria. Quindi hanno mostrato qualche volta la tendenza a volerlo spungere, ecco, perché è più problematico che altro all'interno. Poi c'è il problema dal punto di vista fisico, che l'infinito di fatto dal punto di vista dei fisici è un'astrazione che però è priva di valore fisico convenzionabile, ecco. E quindi ha una funzione all'interno della teoria. Ecco, chiaramente bisogna, cioè già Aristotele proponeva questa la brillante distinzione tra l'infinito da intendersi come infinito attuale e in potenza, no? Quando noi l'attuale non abbiamo più l'intenzione. Possiamo esatto. Il punto interessante è l'infinito in potenza, perché in effetti noi non abbiamo problemi a concepire, avere il concetto almeno di una serie, ad esempio, infinita di numeri o di. E chiaramente abbiamo il concetto, ma non riusciamo tante volte a rendere questo concetto sensato, a rendere parte del nostro schema concettuale, della nostra vita. E ecco questo, sì. La dimensione dell'infinito può essere, penso in particolare all'aspetto religioso, concepita principalmente come temporale, cioè per noi l'infinito è sostanzialmente l'eterno. Però esiste anche la dimensione spaziale dell'infinito nelle visioni teologiche, pensiamo al famoso al di là, che però ancora una volta è una definizione in effetti poi spaziale. Su questo come si muove la teologia, perlomeno la nostra, quella occidentale e cattolica? Ma direi che la teologia un po' si basa sulla rivelazione che c'è nei testi sacri, quindi nella tradizione ricevuta dai secoli, e un po' si confronta con quelli che sono i risultati delle acquisizioni delle scienze. Normalmente le scienze insegnano a livello scolastico che ci sono quattro dimensioni, larghezza, profondità, altezza e il tempo, in realtà fisici e ricercatori più avanzati parlano di una dozzina di dimensioni almeno. Quindi il famoso al di là è forse un al di qua in un'altra dimensione, no? Di non visibilità, di non tangibilità, ma di reale presenza secondo criteri diversi, secondo vibrazioni diverse. La fisica contemporanea dice che non siamo materia e spirito, ma siamo energia, quindi l'energia che si dilata, che tende a espandersi, a perdersi, ma di nuovo concentrarsi, rigenerarsi e così via. E la teologia parla dell'infinito partendo ad esempio dal bellissimo Salmo numero 8, no? Se guarda il cielo che tu hai creato, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne curi, il figlio è l'uomo perché te ne dia pensiero. Eppure tu hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore gli hai coronato, gli hai dato potere su tutte le tue opere, eccetera, eccetera. E io credo che qualche volta, se ci trasponiamo nella condizione dei nostri antenati, che non avevano l'illuminazione artificiale delle strade, ma che la notte rincasando vedevano le stelle, come che c'era il suo arruffrente, l'alta Valderona, il medievale, così, un po' di nosi, vedendo le stelle così, no? Ti impressiona. Se poi ti leggi qualche comunicato che afferma che la stella che brilla da più lontano si trova a minuto più, minuto meno, 20 miliardi di anni di luce. Quindi se uno viaggiasse alla velocità della luce, che in 0,8 secondi fa 10 volte il giro della Terra all'equatore, se uno viaggiasse a quella velocità, 20 miliardi di anni arriverebbe sulla stella più lontana per scoprire che magari quella già esplosa 8 miliardi di anni fa, perché la sua luce è partita 20 miliardi di anni luce fa. Perché, riflettendo anche sui dati della scienza, c'è di che stupirsi. Si scopre un mistero grande, si scopre un universo che ci dicono si sta espandendo. Ma se è già infinito, come fa a espandersi? Dove si espande se è infinito? Troviamo con molta consolazione nei teologi che anche le scienze sono infarcite di mistero. Solo che noi lo dichiariamo che è un'ipotesi, una teoria, un dogma, ma molto spesso le scienze si presentano come dei dati di fatto, come delle leggi dimostrate, salvo poi smentirle alla prossima occasione. Ricordate che un tempo avevamo un certo numero di pianeti, quando ho fatto elementare i medi superiori, poi a un certo punto sento dire che uno l'hanno cancellato perché non era un pianeta. Cioè, fatti studiare come per muovere, sono i ricevi, tutti ti danno una nota, un brutto voto, e dopo ne hanno tolto uno perché la convenzione della comunità scientifica ha deciso che io credo che l'infinito sia qualcosa che possiamo scoprire se guardiamo molto in alto, oppure come ce l'ha detto prima, molto in basso, no? L'infinitamente piccolo. Come mai non si può scendere a meno di 173 gradi sotto zero? Nulla, nessuno è riuscito a forare questa temperatura minima. È una via di non ritorno, lì c'è un confine. Ma allora non è infinita la nostra potenzialità di creare il freddo, di indagare le temperature così abissali. Ci sono tante aporie, tante domande che ci inquietano, e la teologia dice che tutto l'infinito è contenuto nel Dio che è infinito a sua volta. E per creare l'universo, dice la teoria ebraica che abbiamo fatto in parte nostra, Dio ha operato lo zimzum, cioè si è ritratto, si è, come dire, ha trattenuto il respiro per fare spazio al mondo e all'uomo. Una teoria interessante, perché se Dio era infinito, perché vi fosse posto per altro, doveva in qualche modo autolimitarsi e fare spazio all'uomo. Quindi l'uomo è l'essere infinito, che essendo però all'interno dell'infinitudine divina, partecipa dell'infinitudine, e quando si scioglierà questa nostra terra, tenda terrena, sarà effettivamente immerso in questo infinito che è un mare di energia. Sembra semplice, ma comprenderlo non è così facile, però dopo allora aveva citato le stelle, e anche le stelle che abbiamo evocato sono poi quella volta rispetto a cui, ad esempio, come dice Federica Malfatti, Kant si poneva delle domande, cioè poneva il fatto, si domandava quanto l'infinitezza, o meglio la finitezza dell'universo che avesse sopra di sé, con le sue leggi precise, gli facesse anche per contrasto capire quanto fosse infinita la legge morale dentro di sé. E allora qui si entra in un altro ambito piuttosto spinoso di come questa infinitezza e assoluta possa dialogare con quella che è la nostra libertà, perché se tutto è infinito o non ha confini, per noi cosa ci stiamo a fare? Se già tutto esiste, il nostro atto, la nostra libertà, forse neppure quella esiste. Ecco, su Kant il limite e l'infinito, prima di andare sulla morale, ci sono tante cose interessanti da dire. Ecco, il Kant è il filosofo che si è occupato di tante cose, insomma, del bello, del buono, ma innanzitutto si è occupato della di conoscenza, quindi, e soprattutto dei limiti della nostra conoscenza. E ho pensato cosa avrebbe detto Kant sul tema dell'infinito, e mi sono detta che lui avrebbe detto che le nostre facoltà intellettive non sono probabilmente adeguate per rendere conto dell'oggetto infinito. Allora, bisogna tenere conto naturalmente che Kant, quando crea la teoria della conoscenza, è di base rimane un empirista. Empirista significa che ogni giustificazione di credenza deve essere supportata dall'elemento empirico dell'osservazione. Chiaramente all'infinito non perveniamo se partiamo dall'osservazione e ci fermiamo. Lui direbbe bene, se ci fermiamo all'intelletto come forma conoscitiva, noi all'infinito non può essere il nostro oggetto di conoscenza. Questo ha dato poi là ai romantici, no? Che hanno detto, molto bene, dal fatto che le nostre facoltà conoscitive sono limitate, non possiamo concludere il fatto che qualcosa non ci sia, no? Naturalmente. Allora andiamo a cercare altre vie conoscitive possibili. E c'era già in campo comunque questo elemento. Tu hai citato la morale, e l'ambito della morale, come vedremo, anche l'ambito dell'idea dell'infinito, sarebbe per Kant l'ambito della ragione, ecco, non dell'intelletto, che è la facoltà conoscitiva per eccellenza. E questo apre degli scenari interessanti, perché se la conoscenza è esclusa, o almeno la conoscenza in senso intellettuale, allora come ci rapportiamo a questo oggetto? Infinito. E l'infinitezza lascia spazio alla libertà dell'uomo, alla libertà di scelta, alla libertà di dire adesso io cambio la realtà con una mia decisione. Allora, diciamo che la scienza, l'immagine scientifica che ci è veicolata dai scienziati, tenderebbe a rispondere negativamente a questa domanda. Il che è molto angosciante. E io penso che sia anche uno dei grandi limiti dell'immagine scientifica il fatto che non riesca a rendere conto delle nostre intuizioni. Cioè, io penso che ciascuno di noi si veda come un agente del mondo che è in grado di operare scelte in libertà. Diciamo, ci troviamo spesso dei limiti in cui diciamo, bene, le cose possono girare per un verso o nell'altro, e noi scegliamo. E con la nostra scelta determiniamo in qualche misura le vedo. Quindi io direi che nell'immagine che possiamo chiamare l'immagine che ci è data, prescientifica o immanente, che dir si voglia, noi siamo agenti liberi sicuramente. E la scienza, secondo me, deve assolutamente rendere conto di questa cosa, perché l'immagine scientifica è in contrapposizione radicale con questo. Anche se i nuovi risvolti della fisica novecentesca hanno aperto scenari interessanti, perché il determinismo newtoniano non sussiste più, ecco, diciamo, ci sono degli ambiti di probabilità, le cose cadono perché è probabile che accada. Esattamente. E di farlo risolvere. Questione antica, un po' Lorena, perché se Dio è onnipotente, onnisciente, quindi infinito, sa tutto di noi, quindi la nostra storia è già scritta, e io cosa ci sto a fare con la mia pena? Beh, il giornalista sa già come certe cose andranno a finire, no? Cioè, si sa benissimo che prima delle elezioni i politici hanno un linguaggio e fanno certi discorsi, dopo le elezioni cambiano il discorso, il linguaggio fanno altri discorsi, eccetera. Quello che era stato promesso si rivela molto difficile, più di quanto non avessero pensato, eccetera, eccetera. E questo si ripete ogni elezione, quindi anche il giornalista è onnisciente nel suo campo, non sa come. La mamma sa benissimo che se Pelino gira senza mani in bicicletta una, due, tre volte, prima poi casca e si fa male. La mamma lo sa, perché il mondo è Pelino che gira in bici senza mani, casca e si fa male. Ma la mamma cosa deve fare? Rinchiudere Pelino? Ingabbiarlo? Pierino si rivolge al telefono azzurro e fa incarcerare la madre per crudeltà, costrizione, eccetera. Pierino gli dice: sono più svegli si sente libero di fare le sue stupidaggini. La mamma vuole che ti dica, impari gradualmente, ragionando, sperimentando, cosa è bene, cosa non è bene. Il Padre Eterno. Padre Eterno che, Padre ci dà un esempio spettacolare, perché sei giorni crea il mondo, prende la fine l'uomo che era molto buono, e il settimo giorno conclude l'opera e si riposa. Ci dice che dobbiamo anche riposarci ogni tanto, non è male, no? E però noi abbiamo detto per secoli nella teologia che Dio ha creato un mondo perfetto. E allora gli illuministi dicevano, ma allora se l'ha creato perfetto, perché devi intervenire con i miracoli, con le catastrofi per farci capire, col fulmine che colpisce la persona cattiva, con la peste che colpisce il popolo infedele, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente queste associazioni, peste, flagello di Dio, sono elucubrazioni di teologi. Ancora oggi, ogni tanto, c'è qualche eminente responsabile di Madre Chiesa che si dimostra un eminente irresponsabile. Ricordo fino all'anno 80 un cardinale che disse l'AIDS è la punizione divina per l'immoralità degli uomini. Immorale è uno che pensa a queste cose e deve essere contento di averlo detto quando era Papa un altro e non l'attuale Papa Francesco, che l'avrebbe mandato sulle isole Faroe a fare il guardiano sul faro a portare i gabbiani. Queste associazioni sono temerarie e ingiuste. Dio ci vuole liberi, ma la libertà sta nel rendersi conto di quanto siamo piccoli e grandi al tempo stesso, no? Siamo degli esseri grandi, abbiamo una mente che spazia, che può creare delle cose, specialmente nella fase del sogno, no? Che cosa non ci immaginiamo nel sogno? Viene fuori una mente che è altro che vulcanica, è galattica, è stratosferica, poi ci svegliamo, scendiamo con i piedi per terra, ci accontentiamo di fare colazione, di fare le nostre cosettine, non alziamo troppo lo sguardo, però osare un po', osare, anche perché, ripeto, nella teologia antica si diceva Dio ha creato un mondo perfetto, e non è vero, Dio ha creato un mondo perficendum, mondus perficendum, il mondo deve essere perfezionato. Creando gli uomini, Dio non vuole creare dei prodotti, ma dei condiligentes et con creatores, degli esseri che con lui amassero e creassero, che fossero generativi di vita. Tanto che Gesù stesso ci ha detto molto papale, anche se non era papa lui, farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Quindi Dio stesso dice all'uomo, vai avanti, scopri, ci dà quel mandato, dunque c'è crescete e moltiplicatevi, non solo moltiplicatevi, antropizzate il mondo, ma crescete, umanizzate. C'è una versione che dice dominate la terra e soggiogata, e quella successiva che è più antica dice coltivate la terra, rendetela feconda. L'uomo custode del creato, dice il Papa Francesco, custode del creato, ma non custode come il Sultan camerano deve stare attento che non ruba l'uva, allora deve vestirsi con le code di volpe, far paura, sparare per aria con schioppo per spaventare i ladri e i malfattori. No, non custodire per tenere sempre uguale, ma custodire per rendere generativo, fecondo, far crescere. La custodia è qualcosa di vivo, fare crescere, coltivare. La cultura è qualcosa che ha a che fare con l'infinito. L'uomo scopre che mediante la cultura ha il senso dell'infinito e può evolversi in modo pressoché infinito, tendente all'infinito, come diceva la matematica. E su questo volevo solo dire una cosa, che in effetti anche noi non abbiamo neanche il concetto di libertà assoluta, cioè per me allora, intuitivamente è anche perfettamente concepibile che Dio ci abbia dato, diciamo, il framework di determinatezza, diciamo, all'interno del quale noi possiamo concepire una nostra libertà, la nostra cornice, la nostra mente. Sì, questa sarebbe una possibilità, no? Per cui Dio, diciamo, da quelle che possiamo chiamare, non lo so, le leggi di natura, che comunque può in certa misura del miracolo, però all'interno di quel framework noi abbiamo un certo margine di libertà che è limitato, però sussiste anche nella misura in cui c'è quel limite, altrimenti non ce l'avremmo proprio. Immagine duplice, insomma, no? Giochiamo in un recinto, i convinti di essere l'universo intero, ma siamo nel recinto, con due cose che si possono effettivamente giocare. Però quello che avete entrambi detto, prima di introdurre un altro tema, mi fa anche pensare alla rischiosità dell'infinito, l'infinito maneggiare con cura, mi verrebbe da dire, perché le volte che l'uomo si è convinto di avere l'infinito in mano, ne ha fatti di tutti i colori, sia nel campo ideologico, filosofico, che nel campo religioso e teologico. Quindi è un infinito sì, che noi finora abbiamo dipinto in maniera molto buona, ma l'infinito che è anche il suo altro lato, lato fortemente negativo, che è quello di infinito come assoluto, ce n'è uno e tutto il resto non esiste. Quando mi recco con un gruppo di pellegrini in Israele, di solito ho questo piccolo rito: facendo il bagno nel Mar Morto, sfoggio una t-shirt nera con una bella scritta bianca che risalta molto, e c'è scritto: Dio c'è, ma rilassati, non sei tu. Perché ci sono molte persone che si credono Dio, che si credono di dover governare il mondo, gestire, capire, spiegare tutto, hanno responsabilità, un senso, una sindrome da buon samaritano spaventosa. Dio c'è. Allora, l'assoluto, l'infinito, l'eterno e così via, c'è, lo ipotizziamo come esistente, ma sentiamo questo gap, questo salto, questa differenza che c'è. E se esiste Dio, o se comunque sperimentiamo gli effetti della natura, sappiamo che tutti abbiamo un destino, perché Berlusconi non lo vedrei bene come giocatore di pallacanestro, perché il destino lo ha reso, l'ho lasciato piuttosto basso tempo, no? E nessuno gli ha detto devi essere basso dal punto di vista morale, no? Ma sei basso dal punto di vista fisico. E gli ha detto: non posso fare il cestista, faccio l'imbroglione. E lo sta facendo bene, e quello riesce bene, perché ha una bella intelligenza, riesce a inventarsi, riesce a mentire spudoratamente, quindi sfrutta bene le sue risorse. Devo dire, è un grande, pur essendo piccolo da tanti punti di vista. E è un esempio, non è una critica politica, tanto non è più politica, dice. E quindi secondo me c'è un condizionamento che non ci impedisce di spaziare con lo sguardo, di avere dell'intuizione, di essere a volte colti da qualcosa. Tutti citiamo l'inizio del principio di quella poesia: mi illumino di immenso, no? Ci sono dei momenti in cui pressoché tutti ci siamo illuminati di immenso. C'è stato qualche squarcio nella nostra vita che ci è sembrato di avere capito il senso di tutto, per qualche attimo ci è sembrato, ci resta il ricordo, la nozze, la favola bella, che un tempo ti illuse, che sempre ti illude, rimane un po' il ricordo di quella formulazione, di quella luce che c'è stata una volta, due volte, cinque volte nella vita. Ci sono persone che hanno questa ispirazione a volte e ti fa dire: ma guarda, non ispirato, da dove ti sono venute, no? Eureka. Ma eureka cosa vuol dire? Ho capito, o ho trovato, o sono stato trovato, no? Sono stato trovato dalla luce, sono stato trovato da ciò che è incommensurabile, non definibile. L'infinito per forza deve essere indefinibile, non circoscrivibile una definizione di un concetto rigido, perché sennò lo avremo già in mano. Posso descrivere la brocca, il microfono, il libro, eccetera, eccetera, ma ciò che è infinito mi sfida, perché è immensamente più grande di me. Esatto. Poeta, forse Federica potremmo citare un po' da Caro, certo. Su questo tema di infinito, indefinibile, ma forse un po' costruibile. Sì, diciamo, un'associazione classica con l'infinito è Vito Leopardiano, abbiamo imparato tutti la poesia. E, diciamo, Leopardi affronta l'infinito, cioè lui si colloca proprio nella fase post-kantiana, vi dicevo prima del limite imposto al nostro intelletto, alla nostra ragione, no? E Leopardi approccia l'infinito in maniera diversa, in maniera intuitiva, come diceva Leopardi. Leopardi insomma riguarda la siepe, però la siepe lui è interessante notare come lui in realtà quello che gli è dato nell'esperienza è un limite, è l'esperienza di un limite. Lui vede qualcosa e vede un pochino oltre, ma non veramente oltre. Quello che lui fa è poi diciamo riportare questo sguardo nella sua interiorità, ed è lì il luogo, diciamo, di costruzione, perché Leopardi usa questo bellissimo verbo, adesso, mi fingo di determinati spazi. Fingere è usato in senso etimologico, significa plasmare, significa costruire, il verbo latino si usava in relazione alla Creta. Quindi diciamo il concetto di infinito, Leopardi in qualche modo lo deve costruire dentro di sé, nella sua interiorità, non lo trova da fuori, non lo trova, e non lo può neanche affrontare razionalmente. Allora, visto che siamo arrivati al tema del limite, a cui tenevo, perché in fondo l'infinito si contrappone al limite, per dire che in fondo il limite è un valore grosso, è un importante limite. Noi oggi invece tendiamo a non non avere, anzi siamo sempre infinitamente innaffarati, infinitamente giovani, infinitamente pronti. Ricordo la pubblicità di qualche tempo fa di un orologio, diceva no limits, e io ogni volta dico, perché insomma poi tanti sponsorizzati si sono schiantati sulle vette di mezzo mondo. Io ti voglio chiedere proprio questo, rispetto al rapporto tra il limite e l'infinito, che dialogano tra loro, non si possono in qualche modo escludere, si possono, si devono escludere. Ecco, certo, sono strettissimamente correlati, nel senso che se quando mi hai messo in crisi chiedendomi la definizione di infinito, ecco, io la prima cosa a cui ho pensato è che in realtà l'infinito noi lo possiamo definire in negativo. Cioè noi abbiamo un'idea del limite, abbiamo un'idea di che cosa vuol dire un insieme di elementi, e in contrapposizione, come dicevi tu, a questa finitezza noi vediamo, intuiamo in qualche modo, definito. Però la consapevolezza del limite, quindi come dicevi tu, approcciarsi all'infinito con una certa attenzione è importantissimo, bisogna essere consapevoli dei nostri limiti, perché i nostri limiti in certa misura sono anche delle condizioni, di possibilità, cioè noi siamo fatti in un certo modo perché siamo fatti per questo mondo qui, quindi i limiti ci parlano anche del diciamo della sezione del mondo per cui noi siamo stati fatti. Allora faccio una domanda veramente brutale, non parlo bene. Da più sapore alla vita, il fatto di sapere che quello che stiamo facendo è qui ed ora e magari domani non c'è più, per cui me lo devo gustare veramente, il vecchio carpe diem antico, oppure il fatto di sapere che probabilmente sono in rapporto con l'infinito, cosa che ha da più sapore alla vita? Ma nella prospettiva religiosa il rapporto con l'infinito c'è sempre, anche nelle piccole cose quotidiane, e c'è in tutte le religioni, non solo della nostra, solo che ci si immagina l'oltre in modo diverso. E in tutte le religioni, sia che si parli di una vita unica che si ha a disposizione, sia che si parli di reincarnazione o di anche rinascita, c'è questa idea che ciò che faccio qui avrà una ricaduta su quello che sarò dopo e il mio distacco dalla storia, dalla fisicità e così via. Quindi c'è l'idea di una continuità dopo la discontinuità, la cesura della morte, un po' da tutte le religioni, vista come una seconda nascita. La prima nascita è stato un trauma, quindi sei stato 9 mesi bello, accudito, servito, riverito, nutrito, un ambiente acquoso, senza luci forti, suoni attutiti, un paradiso. Poi a un certo punto strane pulsioni ti sbattono fuori in un mondo infame dove tutti ridono sguaiatamente, ti tagliuzzano, ti lavano, dove c'è la luce, devi respirare, che male, che facile. Ti trovi proiettato in un'altra dimensione che poi per un po' ti illudi, finché sei bambino, in cielo, che sia infinita, poi ti viene fatto capire che non sarà infinita. Quindi goditi l'oggi, che del domani non è certezza. Alcuni lo prendono come un invito all'edonismo, mi gioco le mie carte adesso, sparo le mie cartucce adesso e poi chissà, vediamo. Soprattutto i giovani d'oggi, la sociologia, sono molto consegnati al presente, perché noi adulti li abbiamo privati del futuro, e vedendo che il futuro sarà uno schifo, non ci sarà lavoro, non ci sarà pensione, ci sarà tanto inquinamento, avremo i cinesi in ogni casa, il negozio, e pieni di immigrati, manca qualche asteroide che ci viene a collidere addosso alla Terra, e siamo fregati per sempre. Quindi gli abbiamo tolto il futuro, perché non gli diamo contratti di lavoro seri, non diamo più le possibilità di avere un alloggio a un prezzo decente e così via. Il giovane dice mi accontento di vivere nel qui ed ora, mi accontento di sopravvivere. È un modo di rinchiudere in qualche modo l'idea di infinito. Questo cioè, ha a che fare con il fatto che non crediamo più davvero in un infinito, lo dico in senso laico o in senso religioso, il fatto di dire che in questa vita qua bisogna un po' più che altro arrangiarsi, più che sognare in grande. Eppure il bisogno di infinito c'è, ad esempio, nella realtà virtuale, che è sempre più invadente. Da noi che abbiamo in buona misura i capelli grigi, un po' di meno, ma loro, i nostri nipotini, i figli e via dicendo, vivono proiettati nella realtà virtuale. Sanno tutto di Sonic, Minecraft, Team Fortress e tutte queste cose qui, Empire of the Wall, vivono in un'altra dimensione dove possono allargarsi all'infinito, possono conquistare, possono vincere nemici, possono comprare risorse, perdo una vita, c'è ancora 5 di riserva prima di te, sono ancora 5 vite, adesso prendo questi bonus, faccio altre 2 vite in più, gli si dà una realtà virtuale che sostituisce anche quella della fede, del credere in grande, del fare i grandi sogni della fede, e li consegna la banalità di ieri sono morto 5 volte, ma ho sconfitto tutti i nemici rossi, una cosa stupenda. Gli abbiamo un po' creato dei paradisi artificiali, gli diamo un infinito che si gioca al computer finché la mamma non si imbuffalisce, si stacca la spina, rimanda a letto, ma loro continueranno a sognare quell'infinito lì, no? E abbiamo un po' derubato dell'infinito vero, dell'infinito sano, no? E tante volte anche i giovincelli non prendono molto sul serio la morte, no? Io vedo tanti bambini, una volta il bambino si disperava quando moriva la donna, adesso dice, ma no? Sono morti tanti dei miei eroi dei videogiochi, credo che sia una donna più, una donna meno, magari ritornerà in circo una volta o l'altra. Ho visto i bambini molto più distaccati, no? Io non ho certe esperienze di funerali e lutti, faccio luogo di funerali, e vedo che i bambini non sono più scioccati come una volta dalla morte, perché gli viene detto sì, ma tutto procede comunque, adesso finisce il gioco, hai perso, ma poi farai partire un'altra partita, magari quella vinci tu. E gli diamo un pochettino un'illusione a un mercato che vi storia da chiedersi, ma dove vado a finire io domani? No? Dove è andata davvero a finire la nonna? No? Perché la morte? È una domanda che i bambini non si pongono quasi più. Questo è un limite pesante. Questo è più o meno quello che riproporrei la stessa domanda. No? Se l'infinito brucia in qualche modo il sapore di ciò che è caduto, di ciò che passa via e che è destinato a finire, oppure invece dà da adesso, è un'altra parola un po' impegnativa, un senso. Ecco, innanzitutto secondo me dipende da che nozione di infinito noi supponiamo, perché se noi vediamo i fisici, no? Allora, partiamo dall'ipotesi che lui sia finito, no? E noi ci chiediamo un bene, questo ce lo chiedeva già un filosofo nel IV secolo a.C., diceva bene, allora mettiamo che sia finito come era il mondo degli antichi, no? Allora, siamo verso la fine di questo infinito, di questo mondo, di questo cosmo, scusate, che è finito, e allungo il braccio oltre immagine, no? Cosa c'è? Cosa trovo? Allora, chiaramente il fisico di oggi, dato che diciamo che la tesi più in voga è che in realtà il nostro universo sia in espansione accelerata, ma sia finito, ecco, chiarissimo. Diciamo, potremmo porci la stessa domanda, no? Ecco, allora il fisico direbbe: beh, bene, fuori c'è il nulla, quindi l'infinito va eventualmente identificato non con il vuoto, perché il vuoto è già una cosa, no? È già un'entità. Non c'è niente, assolutamente nulla. Quindi io dico, con la prospettiva del nulla, allora chiaramente uno ha l'attaccamento radicale a quello che ha qui e ora. Se invece questo infinito noi lo connotiamo in senso magari in qualche modo positivo, allora diventa una prospettiva possibile, un'alternativa, ecco. No? Ecco, questo direi, diciamo, dal punto di vista scientifico è una totale negatività, è un'assenza di essere, però non è quello che io penso, non è neanche quello che noi anche laicamente ci auspichiamo, indipendentemente da un assunto, insomma, da un credo religioso di sorta, ecco. Gli infiniti teologici non sono tutti uguali. Noi occidentali, diciamo, può essere ebraico, insomma, di tradizione ebraica o naturalmente cristiana, ne abbiamo uno. Don Paolo Renner, che conosce anche, lavora nel campo dell'interreligione, della comunicazione tra le religioni, altri infiniti le ha frequentate. Io chiaramente non ti chiedo una disamina di tutti, però una differenza che distingue il nostro infinito teologico da un infinito teologico altro, forse ce la puoi raccontare, che segna anche un po', ci aiuta anche a capire quello in cui sguazziamo noi. Ad esempio, per prendere un paradigma molto diverso dal nostro, quello dell'estremo oriente, quindi il taoismo, le forme dell'induismo, del buddismo, che loro comune denominatore, parlano fortemente della Advaita, no? La dimensione terrena, la dimensione storica, è la fase in cui viviamo la dualità. ci sembra che qui ci sono due Paoli, in realtà Paolo A, Paolo B e Federica sono tutti espressioni del medesimo uno, del tutto, e anche noi qui presenti siamo tutti espressioni del tutto, che è infinito e si manifesta nel finito per nostro tramite con delle forme impermanenti, transitorie, che continuano a mutare e così via. Quindi quello che noi sperimentiamo, secondo le teorie del Simonetti, è Maya, cioè illusione, illusione, un'immagine falsata di ciò che sta dietro la cortina. La donna che San Paolo però parlava della scena di questo mondo, passa la schiena, la scena di questo mondo passa, e dopo vedremo quello che ci sarà oltre. Abbiamo ancora una bella immagine: si semina corruttibile in questa vita e si raccoglie incorruttibile. E quindi per la dottrina dell'Estremo Oriente c'è questa visione di un infinito che si manifesta in modi, in infiniti modi finiti, che danno però testimonianza di un'unità radicale precedente e posteriore ai singoli esistenti. Tant'è che ad esempio il nostro mondo, secondo la dottrina induista, è solo il mondo numero XYZ di tutta una serie che c'è già stata, e un mondo che fa circa 427.000 anni alla fine di questa era si distruggerà, e la opera di Shiva, secondo la divinità dell'induismo, e Vishnu sognerà un nuovo mondo per cui la vita è sogno, dicevo, la vita è sogno, no? Noi siamo in un grande sogno, noi sogniamo di vivere, ma in realtà siamo eterni, no? E nell'Estremo Oriente si pratica sistematicamente il nostro Chris Scott, quando in moderna ci mettiamo già Chris Scott, saluto Dio, saluta Dio, no? Rileviamo che nel nostro prossimo c'è una presenza divina, per loro tutto è Dio e Dio è in tutto, quindi c'è la brocca è Dio, il tavolo è Dio, le lampade sono Dio, tutto è Dio, cioè tutta espressione dell'uno. Quindi noi mediante queste cose finite sperimentiamo l'infinito. Si ipotizza che gli induisti conoscano circa 3 miliardi di divinità, tra quelle macroscopiche, quelle microscopiche, locali, così via, una cosa vertiginosa per noi monoteisti, no? Però queste, nonostante l'esistenza di 3 miliardi di modi di dire Dio, succede un po' lo stesso che si ha nell'Islam, dove 99 sono i bei nomi di Allah, ma Allah è uno. Gli induisti, paradossalmente, sono monoteisti, adorano sotto un'infinità di nomi e sembianze l'unum primum, cioè ciò che sta all'origine di tutto, ciò che ha fatto essere un uomo cosmico, un uomo cosmico che è esploso, ha cominciato dall'origine della vita, si sta espandendo finché non cesserà di esistere, così via. Quindi l'infinito, sperimentiamo l'infinito, secondo una visione per noi un po' acrobatica, ma interessante. Una visione un po' spinoziana anche, no? Noi abbiamo avuto tanti pensatori che però sono stati, erano poi teodossi, ecco, no? Chiaramente, perché poi se Dio non riesce, chiaramente si partecipa, non riesce a distinguersi poi dal creato, poi iniziano i problemi, ecco. Quanto può essere passata piuttosto male per queste cose. Ma comunque, a proposito di noi incontriamo l'infinito anche nelle cose finite, e dopo un po' alla volta chiediamo, perché anche la vostra presenza non è infinita e parlare di queste cose non è propriamente agilissimo, però il tema dell'incontro è stato citato. Noi ci rapportiamo di fronte all'infinito con questa brama di conoscenza, no? Voglio mettere in un cassetto, capire come funziona, che cos'è, magari anche utilizzarlo. Però c'è un'altra modalità di avere esperienza dell'infinito, ad esempio, dice Federica, ma incontrandolo, un po' l'abbiamo già evocato questa facoltà dell'uomo. Sì, diciamo, molto, molto probabilmente l'infinito è sempre stato problematico dal punto di vista conoscitivo, per i filosofi, per i fisici, non tanto per i matematici, ma comunque dal punto di vista conoscitivo. Probabilmente la via della conoscenza stata non è la via giusta. E quindi si apre poi la questione di quale allora la via più adeguata. Diciamo, i romantici avevano risposto ad esempio che l'arte è una delle vie somme per metterci in contatto con l'infinito, la creazione poetica, la creazione musicale. però c'è l'elemento di incontro inteso di incontro intuitivo, ecco, no? Quindi vedere le case d'uomo che si mette in contatto con l'infinito, con l'assoluto, che lascia in qualche modo da parte le pretese di capire anche. Quindi la ragione, questa è tra l'altro la chiusa di Leopardi, no? Leopardi in qualche modo rinuncia a conoscere. Lui dice: bene, il mio io naufraga in questo infinito, in questa infinità, io mi abbandono e quindi in qualche modo rinuncia a capire, però sono uno con quella, sono tornato in quell'unità, in quell'assoluto. Ecco qui. Il tema dell'incontro religioso sicuramente è uno dei temi importanti per raccontare l'infinità anche per un sacerdote. E lì bisogna dire, come affermava Simone Weil, che i mistici delle religioni si incontrano in Dio, perché i mistici sanno della loro pochezza, della loro relatività, del loro limite, sanno di parlare linguaggi diversi, quindi parziali, approssimativi, ma credono in questa intuizione, ispirazione, si affidano al mistero, si lasciano possedere dal mistero, l'esperienza dell'estasi e così via. Jean Nadir Rumi, il grande mistico dell'Islam, sepolto a Konya in Turchia, scriveva poco dopo San Francesco, viene chiamato San Francesco dell'Islam, quando Dio bussa alla tua porta e tu gli dici chi è, e lui dice sono io, e tu gli dici sono io anch'io, e separandoti da lui non potrai mai incontrarti con lui. Se lui bussa e dice sono io, tu devi rispondere anch'io sono tu, e allora sarai in te. C'è questa inabitazione di cui parlava anche il Vangelo di ieri, Gesù nel Vangelo di Giovanni: restate in me, io resto in voi, e allora sarai voi anche il Padre mio. C'è questa dimensione di un Dio che può inabitare nell'uomo, anche nella tradizione cristiana, senza diventare credenti nel panteismo, nel panenteismo e così via, ma c'è l'idea che se tu fai spazio al mistero santo, se tu fai spazio anche all'amore, fai spazio all'infinito. Io dico spesso nei matrimoni, la fede nuziale, da quando poi sono morta mamma mi ha lasciato quella di papà, quindi sto portando, la fede nuziale è rotonda non solo perché deve stare sul dito, deve essere adattabile al dito, ma perché testimonia la preziosità d'oro dell'amore e l'infinità dell'amore autentico. L'amore non solo come sentimento, ma l'amore come virtù teologica. Per cui diciamo, Dio ha creato il mondo, noi cristiani, Dio è Dio trinitario, dice anche Papa Francesco nella Laudato Si all'inizio alla fine, ha creato il mondo per la sua sovrabbondanza di amore. Siccome Padre, Figlio e Spirito erano un vortice di amore infinito, hanno detto dobbiamo creare qualcuno che possa condividere con noi la gioia dell'amore. Quindi hanno creato l'uomo che è chiamato all'amore infinito, lo vive in modo spesso molto sanremese, lo fa entrare nelle canzonette, lo vive come un'emozione da poco, e via dicendo, ma l'uomo sa che nell'amore intravede l'infinito, no? Nell'amore vede qualcosa di eroico, vede qualcosa di grandioso, vede qualcosa di universale, quindi che ha a che fare anche con l'infinito. Per cui praticando l'amore nel quotidiano si incontra una scheggia di infinito, un po' di luce di infinito. Allora, intorno all'infinito, alla chiacchierata di questa sera, ci abbiamo un po' intorno, che è difficile entrarci magari con l'incontro. Io ringrazio molto Federica Malfatti, ringrazio molto Lorena, cioè gli darei, faremo un applauso perché sarò breve anche se l'ho scritta. L'abilità dell'arte rende comprensibile all'uomo l'infinito. L'unico infinito è reso intelligibile dall'arte. L'invisibile è sinonimo di infinito e l'arte lo rivela all'uomo. L'arte è verità quando rappresenta l'infinito. Infinita armonia uguale verità. Infinita invenzione uguale verità. Infinita spazialità uguale verità, infinita luce uguale verità, infinito cromatismo uguale verità. Maggiore è il distacco dal naturalismo, più l'arte è infinita. L'ermeneutica traduce l'infinito in linguaggio finito, costituito da forme autonome rispetto al naturale. Tanto più si distaccano da limitazioni della natura, mimesi, tanto più assumono valenze infinite. La verità è oggettiva ed è la quinta essenza dell'arte. Lo studio approfondito consente di distinguere le forme infinite costituite da elementi invisibili all'occhio ma percepibili da mente sensibile. Questi elementi costituiscono i simulacri. I simulacri simulano le sembianze naturali ma le trascendono e trasfigurano, creando il mondo autonomo e artificiale dell'arte. L'arte, prodotto culturale, ha una verità artificiale, opposta alla verità naturale. Nella pittura, fenomeno concettuale di totale artificio, si realizza la massima espressione artistica. L'opera d'arte rappresenta solo se stessa. Gli elementi che la compongono, linee, colori, superfici, composizioni, iconografia, ne consentono la completa fruizione. Le letture dell'arte figurativa del passato, l'iconologia, non sono specifici dell'arte, ma della storia naturale e sociale. L'arte insegna l'arte, di fronte ad essa si diventa qualcuno. Grazie. Beh, un trattato molto interessante. Contesterei due affermazioni, le altre le trovo molto affascinanti. L'arte non fa comprendere l'infinito, lo fa intuire, lo fa intravedere, lo fa amare, lo lancia con una provocazione, perché l'infinito non si può comprendere, è incomprensibile, si può intravederlo e così via. Se vedete gli affreschi di Giotto ad Assisi, ora la pena degli scrupoli, percepirà che c'è una qualità infinita nella comprensione di quelle forme che ci sfuggono alla comparazione naturalista. Io questo lo definisco. Io direi, piuttosto che affermare, la seconda cosa di un testo, che la verità sia oggettiva, direi che la verità dobbiamo raggiungerla nella sua compiutezza, quindi non l'abbiamo ancora percepita, raggiunta la verità, e forse più sinfonica che oggettiva. È talmente sinfonica, la verità è talmente sinfonica o policroma, che per coglierla tutta dovremo perderci nell'immensità. E quindi ci vorrà del tempo, forse anche la morte. Grazie per l'intervento, ci sono tanti grandi stimoli. Ecco, io sarei un po' attenta a usare il termine verità, perché la verità è innanzitutto fa sempre riferimento ad un certo specifico linguaggio. Per l'ambito artistico si usano forse anche altri termini, dire grande è vera, dice poco, no? Però lei ha toccato un punto molto interessante sul rapporto tra l'arte e la natura, no? L'arte non è copia, è creazione, e questa natura creativa è molto importante per i romantici, perché è proprio in questo atto creativo, no? Quello di compartecipazione all'atto creativo dell'assoluto, che si poteva intuire, diciamo, l'infinito o l'assoluto come concetto, però si tratta sempre di un'intuizione parziale, non di una comprensione, come dicevo, totale, direi, ecco. No, comprendere la verità è un'operazione molto complessa, ma la verità è intrinseca nell'opera. Cioè, voi avete sulla cartolina il caso ad altri che guarda l'infinito, e quello ha una sua verità che noi non riusciamo appieno a comprendere, però ce l'ha oggettivamente, non so se nel senso. Diamo un altro punto. No, grazie. Prego. Sì, grazie, brevissimamente. Io per prima cosa vorrei ringraziare per questa iniziativa, che ho disdetto un paio di impegni perché mi sembra molto importante. Sono venuto qui con tante domande in testa e naturalmente si va a casa anche con tante domande dopo questa interessantissima discussione. Ma volevo sottolineare un aspetto che poi è stato evidenziato un po' sia filosoficamente che dal punto di vista religioso. Cioè, noi con la nostra capacità conoscitiva non riusciamo a capire l'infinito, ma già questo è una grande conoscenza. Cioè, io so che il raggio del tempo lo comprendo come una scadenza che possiede così via, ma come faccio a immaginare che mai abbia iniziato e che mai finisca? O anche viceversa, se io ti dico, beh, avrà iniziato chissà quella data lì, e dico, ma e poi prima cosa c'era? Cioè la mia mente ti mette subito in imbarazzo, tenendo questo ti dico, beh, finisce con la fine del mondo, quello è, e poi cosa ci sarà? Cioè rimane aperta la questione. E lo stesso vale per l'universo, cioè dico qui l'universo, Don Renner ha detto, sì, poi ci sono queste immense distanze di miliardi di anni, sì, però poi, e poi cosa c'è? Cioè, non posso immaginare che ci sia un muro che poi finisca, no? E questo mi porta anche un po' di conforto, perché dico, io non sono in grado di capire l'infinito, ma capisco che la mente umana non può comprendere, e questo poi si ripete in Platone, che ha visto nella grotta sua, no? Dice, io vedo solo le ombre di quello che realmente succede, o in Kant, che dice, come la chiave di tutto molto bene, questa la mente non la può fare. E fisicamente, io non sono un fisico, perciò non so se cito bene, ma Einstein ha potuto dimostrare che il tempo dipende dalla velocità in cui si muove, cioè invece diventa relativo, perché se tu vai velocemente, immaginate che si adatti alla velocità di luce, allora addirittura il tempo si dovrebbe fermare o si fermerà, no? Tutto questo cosa mi dice? Che noi siamo veramente nella situazione di dover immaginare che siamo incompleti e che c'è qualcosa di grandissimo, incomprensibile, e che probabilmente tempo e anche luogo, cioè il nostro muoverci, sono forse delle illusioni, delle coordinate messe lì così per noi, che in verità poi non esistono neanche. Questo è un po' anche il mio ricordo a un nostro insegnante, Ludo, era nel liceo classico Bolzano, no? Che diceva, in queste cose si trova anche effettivamente la dimostrazione di Dio. Ringrazio. Grazie per questo intervento molto cartesiano e kantiano, grazie. Però ha detto una cosa molto, molto interessante secondo me, perché noi siamo partiti dicendo, bene, parliamo dell'infinito, e siamo arrivati a parlare di noi stessi. Quello che fa Cartesio alla fine, no? E quello che, anche quello che fa Kant, non parla mai della cosa, dell'oggetto, parla sempre dei nostri limiti, delle nostre possibilità. E questo è un punto molto importante veramente, perché chiaramente anche relazionandoci all'infinito noi scopriamo la nostra natura limitata, la nostra incompletezza, e la dobbiamo accettare. Faccio direttamente una domanda molto breve. L'infinito è un concetto molto duro da comprendere, ma a livello teologico una delle cose più dure che io faccio fatica a comprendere è l'infinito del peccato e della punizione. È una cosa che non riesco ancora molto a digerire. Quindi la domanda è un qualche chiarimento, se possibile. Credo questo Paolo Renner. Io incarno l'immagine del peccato per rispondere della grazia, questo lo dico. Sempre così. Poi dice che sono le donne discriminate. Sì, su questo c'è molto da lavorare e devo dire stanno avvenendo delle svolte copernicane nella teologia, perché da una teologia molto negativa, punitiva, cupa, così, siamo arrivati a una teologia, diciamo, dal Vaticano II in qua, nel secondo dopoguerra, eccetera, molto più centrata sul Evangelo che non sul dogma, sul precetto, sul divieto e così via come da un tempo. Ho predicato appena gli esercizi spirituali del suor Terziaria del Sanone, sui vari mondi in cui viviamo, di Forwell, di Innenwell, di Vivovell, di Mittwell, di Umwelt, di Nachwelt e così via, no? E dicevo, ecco, siete stati educati alla Abtötung, alla mortificazione, al sacrificio, al fioretto, al mese di maggio e così via, ma Gesù è venuto per portarci la vita in pienezza, e ancora non tutti i predicatori hanno il coraggio. coraggio di recepire questo che è il succo del Vangelo. Papa Francesco sì, era ieri in visita alla parrocchia romana dove ho lavorato per 8 anni, non so, Pier Damiani e Casa Bernocchi, portato tanta gioia, entusiasmo, quindi è per di uno che ti vivifica, non ti mortifica. Ci sono ancora alcuni mortificatori in giro, ma non è questo il senso. E dunque anche il ragionamento sul peccato è stato molto risettato in questo senso. Non siamo una massa dannata, come ebbe a dire a volte Agostino, non siamo sotto nelle sgriffie di Satana, no? Siamo peccatori così così, diceva anche Lewis nella Brindisi di Berlì, che i peccatori croccanti, saporiti una volta non ci sono più, sono più che altro peccati di omissione, piccole furbatine, cose così. Massacratori di Treblinka non ci sono più, eccetera, e non ci sono gli affamatori, potremmo dire, i peccati sociali, le strutture di peccato che abbiamo fatto. Stiamo ripensando fortemente tutto il discorso sul peccato, perché se una volta si lavorava molto sul De Sexto, il sesto comandamento, lo ricordate? Non fornicare. E noi ragazzini vedevamo tutte queste formiche che giravano in scena, ma le formiche non commettere atti impuri, vedeva più chiaramente. E girava tutto su quello: cosa hai fatto, quanto l'hai fatto, con chi l'hai fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Era un regime poliziesco. Adesso, per fortuna, la gente ha capito che quella non è la realtà più drammatica, ma che bisogna interrogarsi sulla onestà, sulla giustizia, sul rispetto degli altri, eccetera. Nelle catechesi si fanno dei ragionamenti più seri. Ci si dice: preparate la confessione non sugli schemini di San Pio X, ma sul Vangelo. Prendete la pagina del Vangelo, leggete: carità, senza finzione, senza ipocrisia, tutto sopporta, tutto scusa, tutto. Sei su questo registro o devi conoscere manchevole su questo? E ciò premesso, chiunque, animato dalla parola di Dio, dall'incoraggiamento della comunità, eccetera, si penta, riceverà perdono. Bisogna però anche agitare l'ipotesi che uno non si voglia mai pentire e quindi potrebbe ricevere una punizione. E un tempo si lavorava molto, ed era un business anche molto lucrativo, sul purgatorio, quello che ha fatto andare fuori di squadra Martin Lutero, no? Perché vuoi evitare il purgatorio dei peccati? Indulgenza e logo, sobaldi mentre dei clienti sedi da scrivere nel Hindu Spring, fai l'offerta e subito tu hai frutto dal paradiso, senza passare dal Dio, no? Senza passare dal purgatorio. Ci abbiamo costruito le cattedrali con questi conventi, abbiamo indorato le superlette e così via. Adesso ci pesa un po' sulla coscienza e sulla memoria storica, no? Adesso diciamo il purgatorio, con Carl Rahner, un grande modello che io ammiro molto, il purgatorio è l'ultimo momento decisionale, dove anche la carogna più schifosa e inimmaginabile, trovandosi al cospetto della bellezza di Dio, potrà arrivare a dire: cacchio, che merda che sono stato. E in quel momento di questo pentimento radicale, dove uno dice: ho fatto schifo, mi faccio schifo per quanto ho fatto schifo, questa iniezione di una colpevolezza grave è già sufficiente per ottenere la grazia del perdono. Quindi l'inferno c'è, perché ha detto anche Gesù, se ti grignano dentro, eccetera, eccetera. Qualcuno ci sarà più dentro l'inferno, qualcuno che fino all'ultimo si è rifiutato di accogliere quest'ultima mano, quest'ultimo aiuto che Dio gli dà. Però non credo che ci sia più gente all'inferno che in paradiso. Veramente le carogne non sono qualità, ci sono, ci sono. Vi ricordate Papa Giovanni Paolo II in Sicilia, che batteva i fogli del Vangelo sulle giro: uomini della mafia, cambiate vita, convertitevi, voi create un inferno a tanta gente, brucerete nell'inferno. Lui stirava più di me perché era polacco, io sono veranese e educato. Ma capite che c'è del vero in questo? La carogna non può passarla impunemente. E può darsi anche che sia mandata a supplizio eterno, dove piano si lo diventi. Però attenzione, le domande finali, scusate, mi dilungo, ma è importante, che Gesù ci ha passato, non vista della moto d'esame di maturità finale, Gesù è stato così gentile da passarci una fotocopia delle domande. Ha detto: vi chiederanno, Matteo 25:31, ero nudo, ero affamato, ero in carcere, ero straniero, mi hai aiutato? Sono queste le domande finali, e su questo verremo giudicati. Non se è andato a messa tutte le domeniche, hai evitato di mangiare carne venerdì, hai fatto i fioretti nel mese di maggio, se è andato in pellegrinaggio a Medjugorje. Queste domande non sono previste, le domande sono quelle altre, quindi alleniamoci e saremo probabilmente partecipi dell'infinito e della bellezza di Dio. Mi piace che Gaffaro ci ha potuto finire dove è potuto finire, positivamente. Siamo peccatori così, così, e allora però in questo l'infinito è un'iniezione di ottimismo, di ci allarga, forse ci arriviamo, speriamo di arrivare. Gaffaro ci ha aiutato un po'. L'universo e la stupidità umana, ma sull'universo non sono sicuro. Andiamo in ecco, allora io vi saluto, ringrazio ancora i nostri ospiti, è stata una bellissima e interessante serata. Vi ricordo i prossimi appuntamenti: giovedì 25 maggio, questo è il DECMA di Bolzano, una tesi che abbiamo premiato nel 2016 per quanto riguarda il Monumento alla Vittoria, e poi martedì 30 maggio ci sarà un altro libro, verrà presentato l'ultimo libro del professor Dobrilla, 5.000 anni di effetto placebo, e quindi ci ritroveremo qui sia lunedì che martedì prossimo in questa sala. Siamo pieni di appuntamenti, prima facciamo la gara finale prima di giugno, prima dell'estate. Vi ringrazio ancora per averci invitato.